piccolina per poter toccare il cielo. Usa i pochi spazi, li chiama arcobaleno. Prende poi una foglia per dondolar nell'aria. Quante storie belle narra la mia bimba Ilaria. Solo luce ed ombre tra il vetro e la realtà. Il giorno in cui pioveva dentro la sua mamma e il suo papà. Il tempo si fermò, l'attimo infinito. La speranza che moriva dentro un lumicino. Ma tu salta, salta, salta, oltre tutto ciò che è nero. Ha insegnato a chi era accanto cos'è lottar davvero. Corri, corri, corri e fai mille capriole, sussurrando io non mollo tra i petali del cuore. Ancor non si cammina eppure non si può fermare. Passo dopo passo lei sa dove arrivare, allora stringe i suoi pugnetti e sulla testolina. È una notte fredda, ma adesso arriva la mattina. Il traguardo arriva, ma è stato un lungo viaggio. Ora le sue orme nere scrivono il coraggio. Ci si guarda indietro ed una voce sode è quella di un bambino, ora il suo angelo custode. Salta, salta, salta oltre tutto ciò che è nero. Ha insegnato a chi era accanto cos'è l'amar davvero. Corri, corri, corri e fai mille capriole, sussurrando io non mollo tra i petali del cuore. Per poter toccare il cielo, usa i pochi spazi, parti dell'arcobaleno. Prende poi una foglia per dondolar nell'aria. Quante storie belle narra la mia bimba Ilaria.